Sono qua anch'io. La M però. E vabbè, anche in banda laterale ti ascoltavo bene ugualmente. Io qua ti ascolto meglio, ma sicuramente per colpa mia, dai. È difficile da... è leggermente fuori il mio. Ma di poco è mi. Che tu vuoi sempre prendere di cosa, lei non era un mese di maggio, sennò te l'avevo fatto di cima. Sì, allora, niente di grave. Sto uscendo bene, sì. Mi dà tutto ok qua. Yes, stai uscendo benissimo. Che è? Avanti? Non è a voglia, dai. Sì, ha detto che non è a voglia. Ha bussato e basta. Se vuole entrare entra, adesso metto anche il bip. Questo anche il bip. Io non ho posto togliere invece su questo. Questo ne voleva poco di cose, l'ho regolato io. Ce l'aveva tipo il 3009, no, io l'ho fatto tipo colto, fine. Piccolo, però è corto. Invece il colto è un po' più lungo, no? No, corto è quello del colto, fa B e bu. E comunque va bene, dai. Che non ne metto mai a chi non mi biazzi. Io quello che c'è in macchina invece lo posso togliere. Insomma, c'è una banda in più, questo. Quello ha una banda in meno. Però posso togliere il bip, invece qua no. Lo so. Questo addirittura se lo attacco al computer lo posso programmare per fare fino a 30 MHz. Lo so, scende, forse non so se arriva ai 24, 25 sicuro, fino ai 30. Però vuole attaccato al computer, ma lo lascio così, non me ne sbatte nulla. Per ascoltare, se voglio ascoltare, che non sto più ascoltando nulla, a me. Già c'ho l'altro. Sì, chi trasmette lì, oltre i 28 chi trasmette? Oltre i 28 sono radioamatori, boh. Ma dico, ce n'è gente, è frequentata come frequenta, scusa il gioco di parole. E quando c'è propagazione, come la 27, Emily? Tranne qualche locale che fanno delle prove a 28 350, 450, 500, lì vanno i locali. Perché io sento, vabbè, molto oltre ai 28, 28 qualcosa, il CW arrivano fortissimi. E ci vado più senza inizio banda, poi ci sono i modi digitali, già ce n'è poco di roba. Sì, no, mi sento, quelli in CVD più sono fortissimi, è che devi studiare per capire. Infatti, io c'ho anche il tasto, gatto, mi stavo allenando, ma poi quando hanno fatto quello che hanno fatto, che mi hanno bocciato, ho smesso il tutto, vaffanculo, ho detto. Mi hanno disgustato più, non sto più, manco ascoltando qua. Ma adesso non è più obbligatorio però il CVW, prima sì. No, non è obbligatorio, mi stavo allenando per me, non perché sia obbligatorio. Quindi già ricordavo bene, io un periodo stavo studiando la mia 50, era scesa anche a Cagliari. E beh? Sì, ma si parla di 30 anni fa, non mi ricordo se aveva avuto problemi con CVW. Il CVW è un po' ustico, specialmente l'ascolto, perché dipende da che velocità stanno trasmettendo. Comunque non è una passeggiata, in tutti i sensi tu. È difficile, il CVW non è tanto facile. Io mi stavo allenando per i fatti miei, capito? In modo che potevo trasmettere e ricevere se prendevo il pezzo di carta. Purtroppo mi hanno bocciato, e che vuoi fa? Vabbè. Lei ormai, io non ho più la testa allenata, la memoria, come fai a ricordarti tutto voi? Lo so. Mi dispiace solo che non sono riuscito a prenderla perché c'è gente che ha remato contro. Ci tenevi, dai, ci tenevi in particolar modo. Io, secondo me sono cose che devi fare forse da giovane, quando finisci di studiare, che c'hai il cervello allenato, riesci a immagazzinare un po' di roba. Adesso no, io non ci riuscirei, secondo me, poi. No, mi sono spostato che hanno suonato e sono dovuto andare a aprire. Ho immaginato io, ho qualche telefonata, ho pensato. Sì, non ho fatto in tempo a avvertirti, capito? Non c'è problema, va. L'altro giorno c'era di nuovo il portantista, amico. Beh, questi giorni si è intromesso nuovamente. Lasciali fare. Fregatene, quando c'è la portante lo sai da fare, come faccio io, no? C'è l'interruttore, spegni e basta, e così non ti adiri e si adira lui. Sì, infatti anche un po', ho salutato e ho declinato subito, arrivederci e grazie. Infatti è stato bello, arrivederci e grazie. Ho finito di allenarmi, aveva fatto a capo mio sempre. Vabbè. C'era anche una discreta ruota l'altro giorno, eravamo 4-5, può forse anche di più. Cosa vuoi dire? È andata così. E io purtroppo in questi giorni non è che mi senta bene, quindi non ce n'è tanta voglia. Infatti, visto, sono andato di là per vedere se c'era qualcuno a fare qualche collegamento e boh. Sulla 555 c'era parecchia gente che faceva chiamata. Se vuoi andare, per me non c'è problema, No, negativo, io non ho tanta voglia. Qui qualcuno si sente sotto ogni tanto. Non c'è di niente, Aspetta un attimo. E che qua? Tutto a posto? Non riuscivo a accendere il televisore perché se n'era andato in tilt e non riusciva a accendere, allora ha giovato manca la corrente per aggiungere la sua di. Gli ha fatto tipo un reset, dai. E poi quella persona lì sempre senza antenna, mi pare ovvio. Senza dire parolacce, vai, via che ti attacca. E al tubo, parlando in termini idraulici. Non te l'ha sistemata? Ah, non so nulla io, no. Troppi, acqua al tallate, giusto? Dice che cambia strada quando mi vede. Vabbè, sul tatto, qualcuno l'ha fatta sul tatto. Era bella. Io ero un paio di giorni fuori, ero ai fatti di Villati Mius. Al sud eri allora? Ero con quelli di Cagliari, lì. C'era anche uno di colore, Nieto Bidigo. Sicuramente è nato lì, a Cagliari. Era una greffa di autisti dell'ATM, ma simpatici. Poi facevamo un po' di scherzi. Uno era dormito, gli hanno messo due sigarette di quelle bianche, tipo trichecco, nella bocca. E non se ne è accorto. Una tecnica sopraffina. Poi gli hanno messo la cuffietta e ci facevano dei selfie. Io ho dormito. Hanno una scuola di furbizia quella gente che tu manco ti immagini. Io li conosco bene, però siamo stati bene, dai. Poi domenica, guarda che hanno messo sabato la partita del Cagliari, hanno messo un mega schermo lì con la cassa esterna, quindi tutti quelli con la maglietta del Cagliari avete la partita. E ti pare si perdono Cagliari in mano? Io mi vedo guardare l'Inter, mi vedo un po' un Formula 1, un pezzo anche là, anche se stiamo facendo pena come macchine con la Formula 1. Non sempre si può vincere di Diaghidu. Io non sempre, ma avanti da me piglia di Goiti. Ma Goiti però. Non ce n'è neanche quest'anno. Non sono di essere secondi, non siamo forse neanche quarti o quinti. Io non la sto più seguendo, prima la seguivo sempre la Formula 1 perché mi piaceva, mi guardavo le gare e tutto quanto, Non riesci neanche a gestire le gomme, il consumo delle gomme, no, siamo messi male. Da quando ce n'è andato è morto Enzo Ferrari, boh. Quando morirò padrone non ho venuto a rifare. È proprio così. Prima quelli di Schumacher un po' siamo andati bene, poi un declino. Ma anche gli altri che si sono evoluti, tutti hanno cambiato tante cose, e anche quello mi... Molte volte anche a discapito della Ferrari, molti cambiamenti sono stati fatti, però quest'anno c'è l'automatico, con Alonso, il primo anno, sta andando meglio della Ferrari. Vuol dire che hanno trovato il punto giusto, la messa a punto giusta hanno trovato e vanno meglio di tutti. Il ragazzo è indagato. E quello è. Poi la Mercedes gli dà anche i motori, magari gli passa anche qualche progetto, magari. La Mercedes non è da sottovalutare. No, infatti sta migliorando, anche lì ha avuto un periodo di crisi, ma si sta riprendendo, infatti è arrivato forse secondo e terzo. Non ripeto, non ho visto la gara tutta, perché anch'io un po' la sto mollando. Quando non vinci nulla, porca miseria. Prima ero accanito, me le guardavo sempre le gare, sia quelle delle moto che quelle delle macchine. C'era un altro paio di mani. Quindi stiamo andando meglio con le moto, forse, a livello di sia come marchio sia come pilota. Leclerc ieri non c'è neanche zona punti ha preso, neanche punti ha preso. Sì, sube. Una vergogna, Brooke. E a che punto siamo arrivati? Qua adesso ha scaldato, addirittura è sceso 27.074.073 nella posizione centrale. Quando scalda si attesta di frequenza. E magari quando vai in banda laterale lo devi far scaldare prima. E in banda sale a 4 e in AM scende a 7.3, sempre senza muovere il cursore, in posizione neutra centrale. Inizia in una maniera, poi uno scalda e inizia a scendere di frequenza. Perché eri di uno solo, di pochissimo eri fuori. Quando ho messo uno io, tu stavi andando benissimo, ti ascoltavo bene. Sì, invece quello che c'è in macchina, quello c'ha problemi anche in FM. Non si sente l'incezione, non riceve bene proprio. Anche questo leggermente. Ripeto, poi sono tutti allineati e basta, c'è poco da fare. Perché hanno un casotto di anni e alla fine si starano. Dopo un tot di anni vogliono riallinearsi. Poi sono rimasti anche anni fermi, quindi qualcosa, anche il frequentimetro a volte si spegne, vedi? Poi gli dai un colpettino e si riprende. Lì o è qualche saldatura fredda che si è staccata, oppure bisogna mettere un po' di spray nel contatti, nella morsettiera, come si chiama, nell'attacco a baionetta che c'ha, dai. Tu prova a mettergli un po' di spray, lo fai asciugare, però non CRC, spray per contatti devi comprare. Sì, infatti no, meglio niente, se non ne hai meglio così, gli do appena un colpettino a volte col dito, tac, si riprende subito. E deve essere un falso contatto allora, fra. Sì, qualche cavolata, Invece il relè dell'Alfa Lima poi non ho capito perché è lento. Quando io mollo tarda un po' a ritornare indietro. Anche quello vorrà lubrificato, Può darsi. Che Alfa Lima è? È 507. Quindi è transitorizzato. E quello è bello. L'ha sempre fatto. A volte addirittura quando è freddo tu molli la portante e il relè rimane incollato per un po'. Devi muovere qualcosa per farlo smettere, oppure cambiare da AM a SSB. E magari ci sarà ucido dentro. Invece una volta che scalda, vedi, adesso il relè scatta bene. e K. E l'ossido deve essere dentro, mi ha quello lì. Adesso, ci vorrà un po' di aggirivo, di spray per contatti. E che mi sa che è tutto sigillato, un'altra volta l'avevo controllato, se non sbaglio. Sì, ma è meglio farlo fare da gente che li conosce, perché potersi fare danno mi toccandoli tu. Oppure come vorrebbe essere sostituito un relè, metto un relè nuovo, quello sta andando, sta facendo le pizze. È logico, se non si può aggiustare si sostituisce. Sì, intanto non penso che ti costi più di tanto da un relè. Sì, infatti sono cose così, non è roba, a me mi dispiace di quel 3009, che è accaduto sabato, cazzo, nuovo, nuovo, e parliamo solo perché c'è. Sì, vedrai che già te lo recupera, dai. Se è in gamba, recupera qualche pezzo che manca, dai, da sostituire, e te lo sistema, dai. E in gamba già, in gamba. Lungo per un mese di maggio, Aveva invitato, diciamo. Ehi, non ne hai fretta, grazie a Dio, già. Già ne hai altra roba, dai. Sì, già ce l'ho per modulare qua, tanto mi dove va. Già mi arrangio. Quello ti serve solo perché è una questione di omologazione, basta. E infatti tanto ormai mi uso questo. Ah, la macchina! Ah, questo è una bomba, E infatti sono molto contento di questo apparecchio. Anche Giulio c'ha il 6009 che è uguale a questo praticamente. E usa questo qui, quello lì già. A me piace quello che c'è lo smitter, quello grande, mi sembra te l'ho fatto vedere l'altro giorno. È sempre della Anitone. E non è questo. No, c'è lo smitter quadrato lì sulla sinistra, grande, quella scala, con la doppia scala. Forse stai dicendo il 7007 su. No, è sempre il 555N, mi pare che sia. E allora è questo apparecchio qua, il 5555 c'ha. Boh, aspetta che guardo se lo trovo. Vado a prendere il telefono, aspetta. E te l'ho mandato io la fotografia di questo. Ah, sì, tu già ho capito qual è. Aspetta, ti faccio vedere quello che piace a me. Ehi, mandalo. Cocco, male. Che macchina, caro. Dico di pregare. Duro. Questo non lo dovevi dire. Ebbè, Marcolino. Io buonasera a tutti e due. Dovevi sempre qua roba da fare, o computer, o lavatrice, o cose, o commissioni. Vabbè, e quindi sto usando anche poco. Ciao. Ehi, vabbè, Marcolino, almeno tu ti senti bene. Io sono più di una settimana che mi sento male. Cazzo, cosa ti credi che mi è passata quella roba lì? Io ci beggio di prima. Ehi, Natali, diciamo bene è una parola eufemistica. Si tira avanti, diciamo, non è a sentirsi bene, a tirare avanti, a campare. Sì, ma io mi sento proprio male, gatta. Sono preso alla gola, a diarrea, sono messo male veramente. Non li busso più. Natali, stringi i denti che passerà anche quello. Passerà anche quello. Vediamo se è rientrato Franco. Stava cercando questo apparecchio che c'ha lo smitter grande. Già, dice. Ti lo mando a Natalino. Riprendi, Marco, ciao. Avete parlato in due, è passato Natalino. Ripeti, Fra. Scusa Natalino, ho detto che stavo facendo una foto, uno screenshot di un apparecchio, così la mando a vedere a Natalino. Ben sentito, Fra, ben sentito. Qua sono tra una cosa e l'altra, ho trovato un po' il tempo per entrare, dai. Meno salutare, 5 minuti di chiacchiere. Questa cosa io come sento fulmini, cioè come sento tuoni, stacco direttamente l'antenna, spengo l'alimentatore, straccio tutto e non lasciano nemmeno, non si sa mai. Qua non ho problemi, tanto l'antenna rimane sotto il cornicione, già è bella protetta. Via. E noi qua siamo anche circondati di metallo con questo punteggio. Questa storia non si risolve più, vabbè. Poi col cavo è risolto? Beh, quelli non si sono più visti comunque, fra. Non li vediamo da Natale, o meglio a gennaio hanno fatto un po' di intonaco qui dentro il terrazzino. Però, vabbè, io non ho intenzione comunque di cambiarlo perché è una rogna. Però se mi pagano il danno è cosa buona, se mi rientrano è buono. E se no, pazienza. Certo, beh, sempre meglio, il cavo interno è sempre meglio, però hai risolto così, hai tamponato, dai. Sì, sì, ho messo un barilotto, poi quando l'onda barbarica qua sparirà gli farò una bella disossidata e stagnare tutto il barilotto e PL col vulcanizzante e così rimane, tanto non è che abbia cambiato, cioè non, teoricamente non mi ha cambiato nulla, che un decibel non lo vedi, cioè non te ne accorgi nemmeno, seppure, vediamo se Natalino ha visto questo apparato. No, ancora no, non l'ho mandato, aspetta . Ma un baracchino è, o una caffè? No, un baracchino. Sì, sarà il 7007 o il 9009 sicuramente. Se non è quello che ho io, è quello lì. La parola fa donde pagine, luego no. L'ho inviata, eh. È il 7008, vedà. No, c'è scritto, vedi, Anitone, AT5555N. Sì, vabbè, però è come il 7008, quello con i tasti, già ho capito. 7009, Natalì. Sì, 7009, voglio dire. Addirittura lo dà per 60 watt in AM, ma sì, no, in USB. Marcolino ce l'ha, mi fatelo dire. Quell'apparato è il primo uscito che mi pare abbia una quarantina, 30 o 40 watt in FM in banda laterale, non di più però, fai 30 da FM banda laterale, 30 watt, in AM effettivi ne dà 12, loro dicono modulati ne dà 50 ma sono tutte balle, il PEP in AM non vale. Poi però hanno fatto la versione turbo di quell'apparato che ha molti più watt, praticamente gli hanno messo i watt del 9009, qui presumo lo stesso finale, in più gli hanno forse anche ampliato la banda, forse arriva anche ai 12 metri, dico forse perché non l'ho provato, e poi gli hanno messo questo noise reduction, è un DSP diciamo, dai, per silenziare il QRM eccessivo quando senti stazioni basse. Un bel apparatino, dai, ne hanno fatto, l'hanno ampliato, il DSP è una cosa buona, e i watt sono una cosa buona, e anche chi vuole ascoltare i 12 metri, se ci arriva, è buono anche quello. Guarda se ti è arrivata l'immagine, Marco. Vediamo. Sì, una notifica. Come mai non ho sentito il cicalino? Che strano. Sento la vibrazione non il cicalino. Forse devo mettere mano alle impostazioni. Allora. Sì, sì, è quello, è quello. È quello lì. Sì, bellino, esce bene, niente da dire. Poi sembra, è bello perché sembra un bibanda amatoriale, tipo Yaesu. È bello, c'è un bello smitter grande, ampio, tipo, non è a lancetta, penso che si attacca, no? Sì, c'ha le tacche digitali, diciamo, dai. Però non è male come smitter, pare c'ha 9,60 di fondo scala, però io più di 9,40 non è mai arrivato, e nemmeno con quelli vicini. È carino, sempre sono protetti mi pare contro le stazionali eccessive, la sovratensione, la sottotensione, quindi se c'è sbalzi nell'alimentazione dovrebbe proteggerlo, già sono carini, dai. E poi dimmi, dentro è la stessa scheda tipo 6009, 7009, 9009, Alinco, X10, praticamente ci gabbano, mettono la stessa scheda, li cambiano la buccia e i gonzi come me vanno, corrono a comprarlo e praticamente stanno comprando lo stesso apparato con una forma differente. Vai, fra. Sì, questo non ce l'hai però, questo modello qua. Sì, sì, ce l'ho tutti, ce li ho tutti. Ah, questo ce l'hai. Eia, lo vuoi provare? No, se lo vendi magari, che valore può avere? fra da vendere no, mi Natali no, mi ha corteggiato per l'altro, per quello che c'è adesso, ma non li vendo, cioè. Comunque ti consiglio di prenderli nuovi, fra, perché c'hai questa presunta garanzia, almeno all'inizio, di un anno o due, adesso non mi ricordo. E sai che è nuovo però, nuovo, basta comprarlo in Italia però, Come attacco? Cos'è? Quattro poli? No, fra, purtroppo ha una RJ45, quella spina tipo il modem del telefono. Però vendono l'adattatore, io avevo preso anche l'adattatore da RJ a quattro poli e posso usare tutti i microfoni. Ah sì, vero, no. Va che già visto, se non sbaglio, che l'attacco, credo anche quello che c'è a Natalino, lo stesso tipo di attacco, confermi Natalino. No, quattro poli è questo. Ah, vedi, anche se è la stessa marca, ha un attacco diverso. E poi quattro poli ci sono sempre varie, almeno un minimo due varianti. Comunque questo è come l'attacco del 3009, è uguale. Capito? Ah, l'attacco è il tuo praticamente. Tu ci infili il microfono e va. Perché io ho il valvolare, questo Shure non lo posso mettere perché sono invertiti, proprio sopra e sotto a livello laterale, invertiti. Invertiti sono. Ma che apparato stai usando adesso? Questo è il Samurai, come il Galaxy, il Pluto, dai. Però il valvolare ha sempre l'attacco uguale, però i poli sono invertiti, cioè no. Per esempio, se guardando lo frontale, il rosso è giù e il nero è su, lì è contrario, capito? Ma non lo so, io penso che lo Shure lo puoi mettere e se no te li inverti, molto ci vuole. No, tutta più bisogna prendere uno spezzone e fare un adattatore, no, non lo tocco il microfono, perché lo uso più su questo, capito? Sul valvolare non lo uso, no, l'ho provato, non va proprio. Ah, quindi non è attaccato lo Shure su Samurai, dai. Lo Shure è sul Samurai, sempre a quattro poli, però non coincide con quello, col valvolare. E qualcuno mi ha chiesto, dai, prova quel valvolare, sicuramente se li metti quel mic si sente un bel bene, però invece no, ci vuole un adattatore, dai. Avanti Marco. Ehi, Afra, comunque se tu volessi acquistarlo, ma se incerto lo volessi provare, puoi provare questo che ho io, basta che lo tieni a casa ovviamente, e se poi ti piace te lo prendi nuovo, per capire la rumorosità, le funzioni. Sai però in cosa si sono persi? Cioè gli hanno fatto quel bellissimo display digitale e poi i tasti di sotto, che sono in plastica bianca, non li hanno neanche retroilluminati. Cioè, potevano aggiungere una striscietta LED da 0,1 centesimo, l'avrebbero fatto più bello. Sicuramente di notte ha tutto un altro aspetto illuminato. Cosa volevo dire? Non l'hai mai provato? Cioè, non ti ho mai ascoltato con quella radio? Sì, probabilmente sì. Guarda, esce come quello di Natalino. Come 7009, 9009, escono tutti uguali quelli. Modulazione abbastanza limpida, no, abbastanza limpida. E poi solite amenate, l'eco, bla bla bla, quelle cose inutili. Vedi le stazionarie su uno dei display, che però non è molto affidabile, però almeno capisci se ti capota l'antenna, almeno te ne accorgi bene o male. Non è preciso, ma se vedi che va a fondo scala, cioè, già ti aiuta. E credo che abbia appunto la cosa delle stazionarie, anche la resistenza interviene, capito? Stacca la portante direttamente all'apparato. Sì, avrà qualche interruttore termico, appena salgono di temperatura i finali ti blocca l'alimentazione sicuramente, non so come faccia, dai. Comunque, più o meno è così. Confermi Marco. Questa è non una cosa termica, come un tester. Lui se le misura internamente, come li puoi anche vedere sul display, come lui vede stazionali alte, tacca all'istante, stacca. Quindi anche se dovessero spegnere un cavo, cadere l'antenna, bene o male interviene e ti salva l'apparato. Viene subito, cioè non aspetta che scaldi, lo dici tu, legge proprio le stazionarie. Oh, comunque anche questo le legge le stazionarie, questo il Galaxy, dai, il Samurai. E ti dico che non si discosta tantissimo, Se le porto a zero da una parte sono a zero anche nell'apparato. Io me ne accorgo col TM1000, dai. Il mio addirittura, se tu c'hai l'antenna staccata, non ti fa uscire. Questo è protetto. Ma mi fate entrare, io gli sì o no? Chi è? Avanti. Buonasera. E buonasera. Non mi riconosciuto. Io sì. Oh, va, già. Dammi il caso quello, Mi stavo, mi ascoltando due minuti, adesso sono entrato, vai. Tutto bene? Ragazzi, state tutti bene? Sì. Ehi, alla grande, mi sembrava una vecchietta di 80 anni, ma una nuova. Avanti, Natalia. Invece era quel giorno il caldo, ragazzi. E allora, adesso sono raffreddato. Adesso lo chiamiamo Gian Burrasca, avanti Marco. Io, ciao Gianni, mi ha ricordato la signora Mallusu, quello fatta da Benito Urgu. Non tutti i Mallusu vengono per cuocere. Buongiorno, ti ho pensato, sono venuto vicino a casa tua a parcheggiare la macchina per andare a vedere il concerto. Certo, non l'ho trovata in tutta Sassari, più molto più avanti del bar, un po' più avanti del bar, dopo il bar, va, l'ho trovato. Ma qui? E allora, sotto vicino a casa lui, più avanti del bar. Guarda, io il giorno ho visto un bel di gente parcheggiando, cercando posto, dice prova più avanti, prova su, prova giù. Qua è un caos già, tra garage, passi carrai, coso, ponteggi, Ma un amico l'ha trovato in via Cagliari, ha avuto una fortuna sfacciata, è passato da via di Umberto, ha visto il parcheggio, ha dato un'occhiata in via Cagliari, è trovato a retromarcia e se l'ha parcheggiato. Vedi Ganni? Cattando in basso. Quello sì, quelle sono botte di QSO. Ma lì c'è Cannusi Butri di per sé, perché anche a San Gavino l'ha trovato in via Mare il posto. Ehi, a San Gavino tu l'avevi detto già che c'era non il mondo, di più. Ehi, non ne ho mai visto gente così tanta io. Era, guarda, pieno, ma a qualsiasi posto andavi c'era gente. Alle bancarelle era pieno, una fiumana, sembravano formiche. Una fiumana di gente. Via Mare lo stesso, piazza, non se ne parli. Un casino c'era. Trovare il parcheggio, lì l'ho trovato fuori. Quasi arrivato dopo l'ultimo rifornitore che c'è, l'ho trovato lì. Comunque si conferma, c'ero anch'io. Io ho avuto la botta di culo lì per il parcheggio, mi sa te l'avevo anche detto Gianni. Avanti Marco. Io vado a controllare la situazione qua. Bianco, per me riprendete pure. Vai Natale. Per te è andato. Io no, Era bellino, va. I cosi di Tazenda hanno fatto buca, non sono venuti. Io no, ero fuori, sono rientrato la sera, ho sparato quasi 300 km in macchina, quindi ero un po' stanchino, Se non è gara, non è gara. Ma comunque l'hanno dato al televisore, canale 17 lo danno ogni tanto. Canale 17, guarda, lo danno. Guarda che come si chiama, l'altro giorno... Come si chiama? Chico Sorilla mi ha fatto l'intervista, io stavo mangiando il piatto di gamberi, cavolo. E dice che mi hanno visto in televisione. Ma dove? Alghero? No, a Porto Torres. Ah, cavagata. Non lo so, io non ci ho fatto caso, però hanno fatto vedere il concerto, tutto quanto, gli Zeppara c'erano, c'erano i Bertas, c'era Benito Urgu, c'era il piccolo Celentano, insomma c'erano diversi, c'erano i collage. Sì, no, c'era una bella kermesse di personaggi, però ripeto, Meno male, almeno la sera ha smesso di piovere, ma la mattina dice che era un disastro. Poi la notte qualche, diciamo, ammutirà, come si dice sassarese, goccioline proprio.